dopo che il battel di scordia le partì per la sua via, resta un nom le su taistel, el var dal ciel, el dis, Maria. El se tira fai vestì, el se bagna fino al col, de lontan toni la varda, ma che mea de di parol, el pardrea purificas de tanti rob che ien sta terribil, ades però a varda quell'om pensa chi l'era l'impossibil, che il personaggio grafia mensas, senza più giacca né culzon, ades lele, incrucià per terra, in sulla riva de culon. Tony el sa che in chi moment du mal silenzio il può parlà, l'expirata masarà denanza al lac le drea prega. Tony l'era troppo lontan, ma l'acqua e junt an ascoltà una specie de poesia, e i parol vi an conservà. Spirit dell'acqua, della terra, del fuoc, dio dell'aria e de qualsiasi luog, ciapì quest'anima ormai frantumata, che dell'amore alla morte all'è rimbalzata, e come una bala danada sultava, portando dolore su ogni sit che tucava. Ciapì la via oltre quest'anima rutta, portì che la via al maligno dessuta, e il sentè del me cœur oramai letto distort, tan cercavi l'amor, tan portavi la morte. Vanagot, se il prezzi che gode pagà l'esta vita balenga, che capio identità. Preghi chi me circonda, de fam ves bon, de mandai mila toc questa maledizione. Pensavi deve essere il prem di demoni, ma son stato ma è il prem di cuioni. Ades, protegim, che è l'ultima danza, desto om de parlu contro il mal che avanza.